Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, benvenuti, sono le 11.09. Oggi una scelta che ci sta a cuore, che si ripropone ogni anno con la solita domanda: che gli facciamo fare al ragazzino? Calcio, nuoto, judo, no, forse meglio il tennis, e se puntassimo sul golf? Passi se è uno, ma se iniziano a essere due o tre, il problema si fa serio. Carlo Genta ha questo problema. Ciao Carlo! Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Perché di figli ne hai tre. Esatto, problema, sì, è anche bello così, insomma, di figli ne ho tre e lo sport per me, per come la penso io, è obbligatorio come la scuola, quindi facessero quello che vogliono e poi risolviamo i problemi logistici, però facessero qualcosa. Senti, come li hai organizzati? Perché tu hai due bambini e una bambina. Come hai scelto? Hai lasciato che loro ti dicessero mi piace fare questo, oppure hai scelto in base, non so, al loro temperamento, al loro carattere, alla loro struttura fisica? Ma tendenzialmente hanno scelto loro, un po' condizionati dal fatto che insomma la pallacanestro è sempre stato un po' lo sport di famiglia, quindi si sono avvicinati a quello. Mia figlia ha cominciato a giocare a 5 anni e si è subito divertita molto. Quest'anno ne ha 11 e ha deciso di provare qualcosa di diverso come la pallavolo. Quindi io insomma li ho indirizzati un po' verso gli sport di squadra, perché insomma ci sono, al di là dell'aspetto fisico, molte componenti che ritengo importanti: la capacità di stare in gruppo, di conoscere anche ambienti diversi e bambini diversi al di là dei compagni di scuola. Quindi ci sono molte dinamiche che mi piacciono nella crescita di un bambino. Poi se vogliono cambiare, liberissimi di farlo; se vogliono provare altre cose, liberissimi di farlo. L'importante, come ti ripeto Nicoletta, è che secondo me è essenziale che facciano qualcosa, perché quelle due ore di ginnastica a scuola non sono un po' pochine, non risolvono il problema. Senti Carlo, ma se la cavano bene o no? Sì, ma sai, senti il papà che dice sì sì, ma non è che non, insomma, alla fine a me importa davvero poco. Mi importa davvero poco di come giocano. L'importante è che giochino, l'importante è che si divertano, l'importante è che non facciano fatica ad andare all'allenamento, perché se vanno a fare allenamento e sono contenti, vedi che ci vanno con piacere, la vittoria è quella, poi il resto viene da sé, insomma. È veramente poco importante. Senti, devo dire che questo è un problema, perché sai, ci sono, come sai benissimo, ci sono genitori che caricano i figli di troppe pressioni e questi alla fine non si divertono più. Invece devono divertirsi, punto. Devono farlo e devono divertirsi, poi il resto non conta. Senti Carlo, ci ha ascoltato in silenzio un papà che lo sport non lo racconta ma lo fa, e anche lui però come denominatore comune ha tre bambini. È Giorgio Rocca, che saluto. Ciao Giorgio. Ciao a tutti. Senti, lo faceva, va bene, però per me tu sei... No, lo faccio ancora, però è un modo più rilassato e più divertito, insomma. Senti Giorgio, noi abbiamo sentito come se la cava Carlo Genta con tre bambini, bravo. Con questo numero magico te la cavi anche tu? Abbastanza, anche se i miei sono decisamente piccoli, però sono tre maschi, hanno 5, 3,5 e 2 anni. Sì. E i primi due, anche perché il mediano è grande come quello di 5, perché ha una corporatura molto possente, e quindi sì, si comporta più da piccolo, però vuole fare tutto quello che fa il fratello. E quindi già da quando aveva 2 anni e mezzo Giacomo ha sciato col nonno. Io un po' contrario, perché avrei voluto che con calma, che quando l'avresti fatto iniziare tu? 5 anni. 5 per te. Adesso questo, quest'anno sarebbe stato l'anno giusto, perché comunque lo sci è complicato, c'è l'attrezzatura, gli scarponi, gli sci, e se loro riescono ad avere il prima possibile la loro autonomia negli spostamenti, anche per il genitore diventa meno stressante, perché se no con tre bambini, cioè, è complicatissimo, insomma. E poi al di là di quello, anche se lui dopo 2 volte che andava faceva già tutte le piste. Beh sai, buon sangue non mente, no? Si dice sì, così. Vabbè, ma no, ma tutti i bambini sono così, se non hanno paura. E ben consigliati da una persona che li segue nelle prime 2 ore in modo più mirato, magari non con 10, una classe di 10, ma con 2-3 bambini, imparano molto più velocemente. Senti, anche se sto tendendo a, come lui, ad indirizzarli verso gli sport di squadra, perché li responsabilizza meno, perché imparano ad essere più corretti da subito. Anche se ho Giacomo, che è il primo, che mi sta tendendo un po' allo sport, gli piace lo sport dove c'è la sfida diretta con l'avversario, ma dove è solo, fa un po' fatica a lavorare in gruppo. Un pochino, ma sì. Tu li stai spingendo lì, d'altra parte, insomma, figli no, tuoi. No, non nello sci, no, no, no, no, dicevo vicino allo sport di gruppo. Sì, perché se un domani, un po' per i rapporti sociali con altri bambini, come dicevate prima, però anche per se un domani dovesse succedere che diventa davvero bravo per qualsiasi motivo, perché è appassionatissimo, perché e ha molte meno responsabilità. Lo parlo un po' per la mia esperienza sportiva, e la responsabilità che ti dà uno sport dove sei solo è molto maggiore, anche se poi se hai il successo che vinci è tutto tuo. Però se perdi è tutto tuo anche quel senso lì, quindi. Io vorrei fare un rapido commento, dare la parola al dottor Franco Confalonieri, che come ogni venerdì ci accompagna, quindi due papà alle prese con tre bambini di età diverse. Dottor Confalonieri. Sì, direi che non avevo dubbi, ma sono emersi due aspetti che per quella che è la mia esperienza ritengo fondamentali nello sport proposto ai bambini. Il primo, lo sport deve diventare, secondo me, uno strumento per aumentare l'autostima del bambino. È quello che più manca adesso al bambino e all'adolescente. Quindi se il bambino nello sport si realizza i suoi obiettivi, aumenta la sua autostima e diventa un adolescente più sicuro. E questo è di fondamentale importanza. E poi, in particolare, un aspetto dello sport di squadra che ritengo importante è che nello sport, e in particolare nello sport di squadra, ci sono i ruoli, ci sono le competenze. E in una società in cui i ruoli sono sempre più sfumati e sempre più confusi, credo che il ragazzino e l'adolescente abbia davvero bisogno di riconoscere dei ruoli e dei compiti. Anche questo lo aiuta a crescere più sicuro. Ed era un po' le cose che ho intrasentito anche dalle considerazioni sia di Genta che di Rocca. Allora salutiamo Carlo Genta, tanto noi ci vediamo, Carlo, e Giorgio Rocca. Grazie, un saluto anche ai vostri bambini. Grazie a voi. Grazie Nicoletta. Grazie a voi, e io saluto il professor Luca Bernardo, direttore della divisione pediatrica dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie. Perché vogliamo sentire anche la voce del pediatra. Professore, lei consiglia lo sport a tutti i bambini, a partire da che età, e trova delle difficoltà a convincere i genitori a far praticare sport ai loro bambini? Quali sono gli eventuali problemi, le resistenze che le raccontano? Innanzitutto direi che lo sport sempre e comunque, quindi questo credo che sia lo slogan più importante. Bisogna distinguere tra quello che è lo sport cosiddetto ludico nei primi anni di vita e praticamente il momento in cui il bambino inizia a camminare autonomamente, quindi già si possono fare e dargli delle competenze, diciamo, sportive tra virgolette, di movimento soprattutto, ma deve essere un gioco. Poi ovviamente c'è nell'età scolare e adolescenziale anche quello che invece lo sport è più attivo, che deve esserci ed è importante che ci sia, non solo perché comunque fa bene, diciamo, cosiddetto al fisico e alla crescita del ragazzino anche dal punto di vista intellettivo, ma anche è importante perché comunque sappiamo che riduce quello che può essere la vita sedentaria, quindi lo star seduto al computer davanti alla televisione, ma anche riduce quello che oggi è un grave problema tra i bambini e tra gli adolescenti, che è il sovrappeso e l'obesità. La scelta, secondo me, deve essere sempre guidata, anche se ben determinata, spiegando che c'è la necessità di svolgere un'attività fisica con regolarità e circa 2-3 volte alla settimana, deve essere guidata un po' dai genitori, lasciando, penso, al ragazzino, al bambino, ovviamente la scelta di gradimento. O meglio ancora, e sono assolutamente d'accordo, sport di squadra e ancora di più e ancora meglio se fatto con i loro amici. 800 24 0024, se volete intervenire per raccontarci la vostra esperienza, se siete indecisi, se vostro figlio ha, dottor Confalonieri, delle caratteristiche, magari è sovrappeso o troppo gracilino, se temete che magari abbia un problema con i piedini o le ginocchia, insomma ci sono tante ragioni che aiutano i genitori a scegliere o li spingono a fare, e anche delle, raccontateci le scelte che avete fatto e come sono andate. I messaggi, come sempre, 349-238-6666, e abbiamo sempre il nostro profilo Facebook. Dottor Confalonieri, le ho rubato un po' il, no, il compito di dare le due domande, ma sicuramente lei ne ha due di riserva per noi. Sì, la mia domanda di riserva è questa: che cosa vi spaventa di più rispetto allo sport dei vostri figli? Cioè, perché magari non glielo fate fare, gliene fate fare poco, o siete così un pochino spaventati dall'idea di portarli a fare sport? E viceversa, se siete appassionati, qual è la grande attrattiva, qual è la grande motivazione che vi porta a far fare sport ai vostri figli? Poi vediamo se prevarranno i genitori spaventati o i genitori innamorati dello sport per i propri figli. Perché si gioca, molte sono già i messaggi che arrivano: sport di squadra o sport individuali, suggeriti dagli interventi di Carlo Gente e di Giorgio Rocca. Questa è la prima scelta, e soprattutto solo uno sport, o gli lascia la libertà di provare diversi tipi di sport, dal calcetto al nuoto, e allora la cadenza diventa non più bisettimanale, ma si riesce a fare uno sport alla volta, un pomeriggio alla volta, e quindi sarà poco per insegnargli le tecniche per farlo appassionare. Alberto ci chiama da Pisa. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Una cortesia, ascolti. No, io ho una bambina di 7 anni, e praticamente dopo l'estate, dove siamo stati anche dalla nonna, e che lì un pochino è stata viziata, diciamo, a livello alimentare forse, sì. E dopo la visita che facciamo periodicamente ogni volta all'anno per la bambina, per vedere se è tutto a posto, la pediatra ci ha detto che era un pochino sovrappeso e tendeva all'obesità. Ora, noi regolarmente ogni anno li facciamo fare danza, la danza che comunque è divisa in 2 volte alla settimana, una volta dice classica, una volta moderna. Sì. Mi domandavo, un po' bastare per fare un pochino di movimento, o meglio integrare con qualcos'altro? Allora, iniziamo a girare la domanda al professor Bernardo. Professore, quando un pediatra dice ad una mamma, ad un papà, sua figlia e tende un po' all'obesità, ci sono dei bambini rotondetti, ma ad esempio ci sono numerose indagini e dicono che spesso i genitori non se ne accorgono, scambiano magari la morbidezza come un fatto così di fisiologico, perché poi il bambino allungandosi smagrisce, anche perché noi viviamo in un paese dove il bambino cicciottello ha sempre fatto salute. Adesso dobbiamo un po' ricrederci. Il dottor Confalonieri ride perché lui è e lei è rimasto di salute, no? No, io sono, ho raggiunto la salute più avanti. Professor Bernardo, che dice? No, dunque, per quanto riguarda, intanto ricordo che la nostra alimentazione, ovviamente quella corretta, è tra le migliori, quindi l'alimentazione mediterranea è tra le migliori alimentazioni che ci sono al mondo, al di là per gusto, ma anche dal punto di vista nutrizionale. Sì. È vero che dopo l'estate diversi bambini, perché è vero che si muovono in spiaggia, corrono e si divertono, ma è vero anche che cedono in gelati, e quant'altro si possa immaginare. Sì. Giusto o sbagliato che sia, sempre dal punto di vista nutrizionale sto dicendo. A volte, oggi ancora, nei genitori si pensa che non tanto il grasso, ma cicciottello, come diceva giustamente e correttamente, la morbidezza comunque fa bellezza, fa eccetera eccetera. Quello che sicuramente va fatto è uno sport 2-3 volte alla settimana, cioè deve essere cadenzato, non deve essere una cosa singola o singolare o unica nell'arco della settimana. E poi secondo me dei consigli che possiamo dare a questo papà, come a tanti altri, è per esempio di far sfruttare qualsiasi occasione ai propri bambini, e va bene anche per i genitori, che spesso serve, perché a volte anche noi eccediamo in morbidezza, di fare movimento. Quindi sì, andare a scuola a piedi, scendere dal mezzo se uno utilizza ovviamente dei bus pubblici, una fermata prima, fare le scale a piedi in salita e in discesa, non usare gli ascensori o scale mobili all'interno dei grandi magazzini dove si sale o si scende. Sì, sembrano piccole cose, un po' come l'iniziativa che abbiamo lanciato noi e che seguiremo per un mese, no? Ridurre ogni giorno un po' il quantitativo di sale. Sembrano proprio piccole cose, ma noi su queste dobbiamo puntare, no? Non grandi progetti, ma un passo passo quotidiano. Dottor Confalonieri, anche lei? Sì, anche perché la continuità è la garanzia proprio di successo, quindi la continuità sia anche attraverso piccoli interventi. No, volevo completare un attimo l'intervento del professor Bernardo. Ecco, il nostro ascoltatore, direi, magari potrebbe proprio integrare la danza con un'attività un pochino più di resistenza, magari semplice come andare in bicicletta, prende la bicicletta e ogni tanto, il weekend piuttosto che durante la settimana, fa un po' di bicicletta, oppure se hanno tempo e disponibilità a quest'età ideale integrare appunto la danza con il nuoto, sia da un punto di vista metabolico, quindi per favorire la perdita di peso, sia da un punto di vista della crescita delle abilità motorie. Fulvia da Ravenna, buongiorno. Salve, buongiorno. Io non sono mamma, sono zia, però ho sempre avuto queste piccole discussioni con mia cognata e mio fratello. Sì. La domanda è, prima ho sentito il professore o il dottore, non ricordo, che diceva che lo sport fa bene, gratifica il bambino, io sono pienamente d'accordo. Qualora il bambino invece non fosse portato, non avesse un'attitudine allo sport e magari si sentisse anche un po' goffo, può sortire un effetto contrario, fare sport al bambino che magari si sente diverso, non portato, o certo, pandorone come diciamo noi, può avere dei brutti come lo effetti. Chiamate voi, Fulvia, pandorone? Pandorone, sì, noi in Romagna lo chiamiamo pandorone. Dottor è molto brutto come gergo. No, dottor Fulvia, lei ha toccato sicuramente un aspetto fondamentale. Ci sono dei bambini che sono timidi, si sentono goffi, non sono agili, e i compagni sappiamo che sono di una cattiveria a quell'età, lo prendono in giro, per cui diventa veramente per il bambino una fatica oltre che fisica, ma affrontare questo suo disagio, questo impaccio. Dottor Confalonieri, li avrà visti anche a lei, no? Ce n'è tantissimi, sì. Allora, qui secondo me si può intervenire a due livelli. Il primo, lo accennavo precedentemente, stabilire degli obiettivi, cioè gli obiettivi devono essere diversi da bambino a bambino, e la cosa fondamentale è raggiungere l'obiettivo che abbiamo stabilito all'inizio, sia se si fa sport agonistico, sia se si fa sport a livello ludico. Io per esempio sono stato un pessimo nuotatore, anche perché nuotavo poco, però avevo l'istinto agonistico. Il mio obiettivo era fare qualche gara in cui riuscivo ad arrivare penultimo. Ecco, ero gratificato il momento in cui arrivavo penultimo, perché avevo raggiunto il mio piccolo successo personale. Qualora invece la cosa sia ancora più profonda, quindi ci sia proprio questa avversione o questa incapacità al movimento, allora evitiamo magari lo sport organizzato, limitiamoci al gioco molto spontaneo, oppure a fargli fare attività, come accennava bene il professor Bernardo, ma al di fuori del contesto sportivo: camminare, andare in bicicletta, fare le scale, muoversi magari durante il weekend con i genitori, perché indubbiamente si rischia, se insistiamo troppo con lo sport invece di utilizzarlo come strumento di incremento dell'autostima, che lo sport diventi uno strumento di frustrazione. Molti genitori mi stanno scrivendo: il mio bambino è così magro, si ammala sempre, ha sempre il raffreddore, la tosse, per me l'inverno diventa veramente una stagione in cui fare sport diventa molto difficile, si limita a fare sport a scuola. Andreina ci chiama da Bologna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io sono una nonna, in Emilia diciamo il Mifangen, cioè il mio nipotino, soffre di asma. È stata valutata di media entità. Sì. Quando è con me, quando lui vorrebbe correre, noi abitiamo in montagna, io sono sempre molto molto spaventata. Che cosa si può fare con un bambino con l'asma? Grazie Andreina. Professor Bernardo, vede, siamo passati dal raffreddore, dal bambino gracilino, all'asma. Per molto tempo ai bambini asmatici si raccomandava di stare tranquilli, calmi, non agitarsi. Adesso lo scenario è completamente cambiato. Prima dei mercati, solo per rassicurare Andreina, poi ci torniamo. Direi assolutamente lo sport sì, e lo può fare, poi diremo come e in quale modalità. 800 24 00 24, noi vi aspettiamo qui per sport per i bambini, e naturalmente, dato che i bambini noi li consideriamo sempre bambini, i nostri figli, anche se avete dei figli adolescenti, chiamateci. L'età dell'adolescenza è un'età molto difficile, molto spesso i ragazzi smettono di fare sport in un'età in cui sia il fisico che la mente avrebbero proprio bisogno di questo nutrimento dello sport. Vi aspetto. Un bambino asmatico può fare sport? In che misura? C'è uno sport più suggerito di altri, più indicato? Professor Bernardo, alla nonna di Bologna lei ha già dato una prima rassicurazione: sì, può fare sport. Ecco, ricordo che ci sono dei campioni olimpionici che sono affetti da allergie e anche da asma. Sì. E che ovviamente hanno raggiunto dei livelli estremamente importanti dello sport agonistico. Io direi che l'asma, come le patologie in generale, non devono far sì che il bambino, il ragazzo, l'adolescente si senta o debba essere diverso rispetto agli altri. Quello che ovviamente rispetto alla diagnosi di asma, di gravità dell'asma che bisogna fare, e portarsi ovviamente sempre dietro quella che è la famosa bomboletta, il puff, nel senso sì. Il broncodilatatore, che potrebbe essere usato prima di iniziare l'attività o durante l'attività qualora si sentisse la necessità, ma direi che assolutamente passeggiate, movimento, senza ovviamente necessità di affaticamento eccessivo o diciamo mostruoso, come dicono ogni tanto i bambini che le mamme li fanno correre in continuazione. Adesso c'è la rivolta anche dei bambini. Esatto. Ma professore, c'è uno sport, lei mi dice quindi sport, ma c'è un tipo di attività che va meglio di altre? Cioè il nuoto o il tennis, il calcetto o la bici? Possiamo dare delle indicazioni più precise? Io direi magari in un bambino che è particolarmente allergico a sostanze inalanti, non so, le graminaci, o le sostanze che si possono inalare, quindi, oppure allergie ad alcune piante, ovvio magari non è consigliatissimo tra scegliere uno sport all'aperto e uno sport al chiuso, ovviamente è meglio scegliere lo sport al chiuso. Sì. Se un bambino per esempio è positivo agli allergeni, all'epitelio di cavallo, conviene che non faccia equitazione. Certo, lì il buon senso aiuta. Diciamo che comunque idealmente il calcetto, il tennis, ad esempio tutte le arti marziali, quindi anche sport di contatto, che sono anche importanti ed utilizzo per scaricare un po' il ragazzo, ma anche l'adolescente, da quello che è un po' la sua giornata, vanno forse bene. Sono un po' più consigliate, ma ripeto, non ci sono in particolare controindicazioni. Esatto. Manuela ci scrive a proposito: a causa dell'asma da piccola non mi hanno fatto fare sport, ne ho sofferto tanto, mio figlio, anche lui asmatico, l'ho sempre spronato a fare, correre, muoversi, imparando ad ascoltare il suo fisico. Fabio, buongiorno da Modena. Buongiorno. Io volevo portare una mia testimonianza da operatore che da 15 anni dirige le scuole di calcio, ma soprattutto scuole di sport. Sì. In Italia purtroppo c'è una base che è errata, che è quella di non mettere il bambino al centro dell'attenzione per quanto concerne fare sport. Le spiego la motivazione. Io dirigo scuole calcio e è capitato nella mia esperienza di fare, soprattutto per 2 anni consecutivi, una bellissima esperienza, ovvero una volta al mese far venire operatori di altri sport. Quindi dal rugby alle arti marziali, e direttamente a contatto con i bambini, parliamo di bambini dai 5 agli 8 anni. Questo ha fatto sì di arricchire sicuramente il bagaglio di esperienza dei bambini. I bambini sono divertiti tantissimo e quindi rispondo a tanti genitori che sport far fare, ma io consiglio sempre di far scegliere al bambino. Ma cos'è stato quella mia esperienza che voglio portare? Che i genitori stessi non hanno visto di buon grado, perché manca la cultura sportiva, questa sperimentazione, perché hanno visto, praticamente dice: io te lo porto alla scuola di calcio, deve fare calcio, invece non capiscono che il bambino deve fare una moltitudine di sport per capire poi quello che gli piace. Gli piace fare. Provare per appassionarsi. Dottor Confalonieri, lei è d'accordo? 2 brevissime considerazioni su questa telefonata che ritengo molto importante. La prima, grazie a Fabio, grazie, e attraverso Fabio voglio ringraziare tutte le scuole calcio, le società di calcio italiane, perché il calcio svolge un ruolo sociale fondamentale nel nostro paese. Si sostituiscono alla scuola più delle volte e consentono ai nostri ragazzini di fare sport e lavorano in gran parte molto bene, quindi questa è una cosa che ci tengo spesso a dire. Sì, ma lei è proprio lodi sperticate. Sì, perché lo sperimento tutti i giorni sul territorio, proprio questo ruolo che hanno, perché è accessibile a tutti e il più delle volte sono volontari che operano particolarmente bene. In seconda sottolineatura, ritengo importante quanto diceva Fabio, cioè un bambino fin verso i 10 anni dovrebbe poter sperimentare diverse attività motorie, in forma ovviamente agonistica, non esasperato, addirittura in forma di gioco, ma l'ideale sarebbe proprio sperimentare diverse attività e poi verso i 10-11 anni indirizzarsi verso quella che gli piace di più o nella quale o per la quale è più predisposto, scusate. Finalmente una mamma famosa, perché adesso mi sono resa conto che hanno parlato sempre i papà o comunque gli uomini, e io chiedo sostegno alla mia amica Valentina Vezzali da Mamma. Ciao Valentina! Buongiorno a tutti! Senti Valentina, parliamo tra mamme. Far fare l'attività sportiva ai nostri figli è fondamentale, l'abbiamo detto, è importante che si muovano perché socializzano, perché si divertono, perché crescono bene. Certo che insomma è abbastanza impegnativo e molto spesso anche costoso. In termini di tempo devi accompagnarli, prendere e riportarli, e anche proprio perché chi non ha un campetto vicino, un cortile, chi vive in città, insomma. Ma sa bene che i bambini sono un po' come polletti allevati in batteria, non sanno neanche più, no, saltare la corda, per cui c'è sempre il corso per insegnare loro a fare qualcosa, per spronarli a muovere. Vorrei sapere la tua impressione da grande sportiva, da atleta e da mamma. Guarda, io da sportiva ti posso dire di aver avuto dei genitori che forse sono stati un po' moderni per l'epoca, perché hanno sempre fatto fare a me e alle altre mie due sorelle sport, perché mio papà sosteneva che lo sport era un ambiente sano dove far crescere, sì, i propri figli, e i miei genitori comunque il pomeriggio lavoravano, quindi sapere di avere le proprie figlie in una palestra vicino casa, fra l'altro io andavo in palestra a piedi, quindi ho la fortuna di vivere in un piccolo centro dove le strutture sportive non sono poi così lontane, e poi, certo, mia sorella che era più grande di me in 5 anni mi accompagnava lei, quindi erano ancora più tranquilli, e quindi è iniziata questa mia avventura. Fra l'altro sentivo prima il relatore che ha parlato prima di me, che diceva i ragazzini devono fare più attività possibili fino ai 10 anni e poi scegliere l'attività sportiva. Ecco, io ho iniziato a 6 anni, mi sono trovata benissimo a fare scherma, mi sono divertita tantissimo perché andavo in palestra e c'era quel momento di apprendimento schermissimo, poi c'erano tante attività didattiche sportive nelle quali io mi divertivo a stare a farle insieme agli altri ragazzi, e quindi non ho avuto il bisogno di, certo, cambiare. Però ecco, da mamma io ho un bambino che adesso ha 5 anni e dallo scorso anno ho iniziato a fargli praticare un'attività sportiva. In questo momento sta facendo nuoto, Pietro, 3 volte a settimana. È impegnativo perché non è proprio vicino casa, però seguire i suoi progressi, seguire che lo scorso anno non stava neanche a galla, vedere adesso che sta iniziando a fare il dorso, lo stile libero, per me è grande motivo di soddisfazione. E la cosa della quale sono soddisfatta, che comunque Pietro è attratto da questa attività sportiva, mentre magari mi capita dire dai Pietro vieni a fare scherma con la mamma o dai inizia a fare calcio, mi dice assolutamente no mamma, non voglio, quindi sto cercando di assecondare comunque quelle che sono le esigenze del mio bambino, che sono la cosa più importante del mondo. Certo. Valentina, senti, tu hai iniziato a fare scherme, eri, leggendo le tue interviste, una bambina gracilina. Pietro com'è? Pietro è l'opposto di me, guarda il papà, è abbastanza robusto, quindi non c'entra proprio niente, anzi, per quanto è robusto, comunque dentro l'acqua sembra veramente un pesciolino. Io l'altro giorno, la settimana scorsa, tornata dal ritiro, l'ho accompagnato a nuoto e lo vedevo che nuotava, io ero lì, mi incantavo, ero innamorata nel vedere mio figlio che nuotava. E ecco, è robustino, quindi sono contenta che faccia attività fisica, perché comunque gli permette magari di poter mangiare anche un qualcosina di più e comunque di bruciare calorie, anche questo. E poi dare tante soddisfazioni alla sua mamma, perché le mamme, poi coi figli maschi, un bacio a Valentina, grazie per essere stata con grazie noi, è sempre a voi, un piacere, un abbraccio. Saluta Pietro. Sì, arrivederci. Professor Bernardo, vede, lo sport per i bambini gracilini e per i bambini morbidelli. Insomma, questo sport come fa? Come a fare questi due miracoli, no? Due cose che sembrano diverse. Irrobustire laddove ce n'è bisogno e smagrire, togliere quello che c'è in eccesso. Direi e lo paragonerei un po' come un abito, che quando uno lo mette calza a pennello. Sì. Quindi un po' lo sport. Lo sport, come dicevo prima, è assolutamente importante e fondamentale per tanti aspetti emotivi, e direi e sottolineerei sempre la questione del gradimento nei bambini. Mai davvero, perché capita spesso che c'è questa, non tutti i genitori, ma alcuni che vogliono vedere il loro figlio che fa l'olimpionico, fa l'agonista, fa lo sport che vorrebbe aver fatto nel tempo passato il papà, il fratello più grande. Io direi che bisogna guidarli e convincerli nel farlo, ma il gradimento è fondamentale, assoluto, perché il rischio è non ultimo l'abbandono durante l'anno dello sport. Dottor Confalonieri, vorrei darle la parola, ma invece diamo la parola alle informazioni sul traffico e poi torniamo subito dopo insieme. Tra poco. Muoversi, sono le 11:46, noi parliamo di attività sportiva da proporre ai bambini. Abbiamo Marco che ci chiama da Latina, 800 24 0024. Buongiorno Marco. Buongiorno. Allora, innanzitutto io vi seguo sempre con molta affezione, devo dire, e mi trovo molto bene con tutti i consigli che date. Può ripeterlo, Marco, che gongolo, me lo dica di nuovo. No, no, no, è io vero, ho bisogno è vero. In questo periodo di rinsaldare un po' la mia autostima. Ma, eh? Ma no, ma è verissimo. Ecco, mi sembra, via. No, mi sto sembra, scherzando. Mi sembra, io sono quello che ha fatto attività sportiva a livello agonistico, sono disarmonico, chiedevo consigli, sì, e, sì. Li sto, e li sto seguendo e sta andando benissimo. Oh, no, quella cosa che volevo dire non è una domanda, è un consiglio, per piacere, non fate fare ai bambini sport a livello agonistico, fate sentire, perché se restano, per la carità, esce il campione, nessuno mette in dubbio questo, ma se non esce il campione restano disarmonie come le mie e poi restano anche problemi di natura medica che possono aggravare e aggravarsi con il tempo. Quindi scegliete bene, fateli divertire, per la carità, perché si devono divertire tutti, ma non assillateli con risultati. Lei, Marco, parla di bambini. Un commento flash dal nostro dottor Confalloniere e del professor Bernardo, perché ma io il direi, pediatra... sì, io direi più che non fateli fare sport agonistico, costruite un agonismo su misura per ciascun bambino, nel senso che in gran parte dei bambini lo spirito di competizione e di confronto c'è e va assecondato, va educato, va canalizzato, e quindi è giusto che ci sia. Non chiedete troppo al bambino, o chiedete in funzione di quanto agonista è il bambino e di quanto portato è il bambino, cioè il confronto deve essere a livello delle caratteristiche psicologiche e delle caratteristiche fisiche di ciascun bambino. Non esasperatelo, non mettetegli pressione, ma consentitegli di esprimere questo suo desiderio di competere. Professor Bernardo, lei è d'accordo? Assolutamente d'accordo. I bambini devono fare sport, possono farlo soprattutto dopo una certa età. Ecco, non vedo un bambino di 5-6 anni che faccia agonismo, ma lo spirito di competizione cresce e nasce con loro, e quindi non è neanche bello chiuderlo dentro una scatola, però non eccedere e non assillarli, assolutamente sì, perché se non c'è, non c'è. Esatto. Allora io direi che, dato che stiamo ormai concludendo questa prima settimana di ottobre, questo mese ha visto l'avvio di molte iniziative di prevenzione, altre sono in programma, quindi teniamoci in contatto seguendo Essere Benessere, noi abbiamo il nostro sito, profilo Facebook, perché noi vi aiuteremo a segnare in agenda questi appuntamenti che danno a tutti noi l'occasione di occuparci della nostra salute e di tutelarla soprattutto. Iniziamo dalla bella e ormai storica campagna Nastro Rosa della LILT, la Lega Italiana Lotta Contro i Tumori, dedicata alla prevenzione del tumore al seno, il primo tumore femminile per numero di casi, e tra l'altro la sua incidenza è in costante aumento, tanto da essere considerato alla stregua di una vera e propria malattia sociale. Vi do dei numeri: in Italia si calcola che nel 2010 i nuovi casi di tumore alla mammella saliranno a circa 42.000, però, care amiche, sconfiggere la malattia è possibile nella stragrande maggioranza dei casi grazie alla prevenzione e all'anticipazione diagnostica. Quindi ci saranno tante iniziative in tutta Italia durante il mese, visite senologiche in 390 punti di prevenzione, altre iniziative che variano un po' da città a città. Per conoscere tutto questo, tutto quello che la LILT mette a disposizione, potete andare sul sito www.nastrorosa.it oppure il numero verde 800 99 88 77. E come ogni anno, ottobre diventa anche il mese dei bilanci, o meglio il mese in cui gli esperti dell'ADI, che è l'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, invitano a salire sulla bilancia. Ci danno appuntamento il 10 e l'11 ottobre per affrontare e gestire il problema dei chili di troppo, e le due giornate sono una buona occasione per farlo. In linea con noi abbiamo il dottor Giuseppe Fatati, presidente dell'ADI, l'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno a lei. Noi saliamo un po' tutti sulla bilancia, anche il dottor Confalonieri. Dottore, lei sale? Sì. Proprio questo, ha visto, sì. Non era tanto convinta. Professor Bernardo, sulla bilancia lei ci sale o ci fa andare solo i bambini? Professor Bernardo? Purtroppo dico ci salgo e devo salirci anch'io, purtroppo. Allora, dottor Fatati, vede? Ho già trovato delle adesioni. Bene, bene. Allora, che cosa, ci sono tanti centri a disposizione, l'elenco dei centri che aderiscono a questa iniziativa si può vedere sul sito www.obesityday.org, giunto alla sua 10ª edizione, ma la novità di quest'anno, dottore, qual è? Ma la novità di quest'anno è che invitiamo tutti ad andare ai centri e verificare quello che stiamo facendo, verificando bene la data, perché in realtà abbiamo messo 2 giorni perché le strutture ospedaliere non possono rimanere aperte la domenica, ci sono dei vincoli e quindi gli ospedali shiftano all'11, ma ci sono tante iniziative nuove da provare e ci fa piacere se il pubblico ci dice qual è stato il gradimento e che cosa ha trovato, tipo la ciclopasseggiata che fanno tra Termo Viellarino o Gubbio Benessere, o tante iniziative nuove, quindi non solo all'interno degli ospedali ma anche iniziative sul territorio. Noi proprio saliremo insieme agli esperti dell'ADI, parleremo di chili di troppo, parleremo di bisturi, di corsa al bisturi facile, parleremo del stress che in qualche modo ci fa ingrassare proprio lunedì. Ma dottor Fatati, approfittiamo dei nostri ascoltatori che di solito raccolgono al volo queste iniziative perché sono attenti alla prevenzione e alla salute. Molti dei nostri ascoltatori magari si recheranno proprio domenica a fare un saltino per mettersi sulla bilancia seguendo la vostra iniziativa. Allora che cosa possiamo dire? Ma possiamo dire di andare di verificare il centro se è aperto domenica o lunedì, questo lo ripeto per tranquillità, poi di andare, di farsi dare tutte le informazioni e poi magari di dirci com'è andata, in modo tale da avere anche noi un quadro. Quest'anno abbiamo già lanciato un'altra fotografia, l'Italia sulla bilancia regione per regione, una sorta di documento in cui abbiamo chiesto a tutti i nostri presidenti regionali che cosa ne pensavano, adesso chiediamo anche al cittadino che cosa ne pensa lui di noi. Allora, lanciamo questa sfida, questa occasione per gli ascoltatori di Radio 24, inviati in un certo senso, no? Andate domenica, andate lunedì mattina, noi vi aspettiamo poi alle 11, raccontatemi come è andata la vostra visita, dateci un cenno. Grazie dottor Fatati per essere stato con noi ci sentiamo lunedì. Senz'altro, grazie per l'ospitalità come sempre. Grazie dottore. Noi abbiamo lanciato anche un'altra iniziativa, dottor Confalonieri, che è anche il professor Bernardo, so che l'ha accolta molto bene, ed è quello del ridurre il sale ogni giorno per così evitare che la pressione salga, quindi piccole riduzioni per tanta salute in più. Professor Bernardo, anche nei bambini bisogna stare attenti al sale, vero? Direi assolutamente sì. Intanto ricordo che durante il divezzamento si sconsiglia sia l'utilizzo dello zucchero ma anche e soprattutto del sale. Direi che il sale è legato molto anche a un gusto, perché sappiamo che per esempio già nel pane e in alcuni alimenti in parte il sodio possa essere presente. Se proprio dobbiamo utilizzarlo, utilizziamo veramente in senso, in termini parsimoniosissimi, oppure non utilizzarlo assolutamente, che sarebbe la cosa migliore. Tra l'altro, noi l'abbiamo iniziata giovedì 6, ci vogliono circa 2 settimane per abituarci. Abbiamo un controllo con i nostri ascoltatori che ci hanno scritto di ricevere proprio il consiglio via posta elettronica. Insomma, anch'io sto provando, mi verrebbe voglia di aggiungere un pizzico in più, ma sto un pizzico in meno. Dottor Confalonieri, per gli sportivi? Bah, indubbiamente diciamo che lo sportivo ha il vantaggio che attraverso l'attività fisica forse c'è per esempio una minor tendenza all'incremento della pressione, quindi una delle controindicazioni legate al sale per lo sportivo può essere un po' meno grave. Il consiglio che potrei dare io agli sportivi e non, già l'avete dato, ma è l'unico che riesco ad applicare personalmente perché io o mangio con molto gusto o fatico a mangiare, è studiare l'utilizzo delle erbe per insaporire, perché togliere il sale il più delle volte non è sufficiente, perché la roba obiettivamente è molto meno buona. Quindi più che togliere il sale, sostituiamolo con le erbe, scateniamo la nostra fantasia. Scateniamoci allora con il consiglio un pizzico in meno, tanta salute in più. Intanto vi saluto anch'io e vi do appuntamento domani con Questa casa non è un albergo. Grazie al professor Bernardo e al dottor Confalonieri. Sale, un pizzico in meno, tanta salute in più. Venerdì, oggi non salare l'acqua della pasta. Aggiungi in cottura invece un po' di curcuma o di zafferano. Pasta colorata, sapore garantito, sale risparmiato.